Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Prima favola della settima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Vicenza, a cui per sorte aveva tocco il primo aringo della presente notte, levatasi in piedi e fatta la debita reverenza, così a dire incominciò. Favola prima. Ortodosio Simeoni, mercatante e nobile fiorentino, vassene in Fiandra e di Argentina corteggiana innamoratosi della propria moglie più non si ricorda. Ma la moglie, per incantesimi in Fiandra condotta, gravida del marito, a Firenze ritorna. Lungo sarebbe il raccontare quanto e qual sia l'amore che porta la moglie al marito, massimamente quando ella ha uomo a soddisfacimento di se stessa trovato. Ma per contrario non è odio maggiore di quello della donna quando ella si trova in podestà di marito che poco l'aggrada. Perciò che, siccome scrivono e savi, la donna o sommamente ama o sommamente odia, il che agevolmente potrete comprendere se alla favola che ora raccontarvi intendo benigna audienza prestarete. Fu adunque, valorose donne, un mercatante nominato Ortodosio Simeoni, nobile fiorentino, il quale aveva una donna per moglie Isabella chiamata, vaga d'aspetto, gentile di costumi e di vita assai religiosa e santa. Ortodosio, desideroso di mercantatare, prese licenza da parenti suoi e, non senza grandissimo cordoglio della moglie, di Firenze si partì e con le sue merci in Fiandra se n'andò. Avvenne che Ortodosio, per sua buona, anzi malvagia sorte, prese una casa pigione a dirimpetto d'una corteggiana nomata Argentina, del cui amore si fieramente s'accese, che non che d'Isabella, ma di se stesso, più non si ricordava. Erano già trascorsi 5 anni che Isabella non aveva udita novella alcuna di suo marito, se vivo o morto fosse, dove si trovasse. Di che ella ne sentiva la maggior passione che mai donna sentisse, e parevale che a tutte ore l'anima le fosse tratta fuori del cuore. La miserella, essendo religiosa e tutta dedita al divino culto, per sua devozione ogni dì se ne andava alla chiesa dell'Annunciata di Firenze, ed ivi, postasi in genocchioni, con calde lagrime e pietosi sospiri che dal petto uscivano, pregava Dio che a suo marito concedesse il presto ritorno. Ma gli umili prieghi e lunghi digiuni e le larghe limosene che ella faceva nulla le giovavano. Laonde, vedendo la poverella che né per digiuni né per orazioni né per limosine né per altri beni da lei fatti esaudita non era, determinò cangiare maniera e prendere contrario partito. E sì come ella per la dieta era stata divota e fervente nelle orazioni, così ora tutta si diede all'incantagione e fatture, sperando le cose sue riuscirle in meglio. E andatasene solo una mattina a trovar Gabrina Furetta, a quella molto si raccomandò, disponendole tutte le bisogna sue. Era Gabrina donna molto attempata e nell'arte maga più che ogni altra sperimentata, e facea cose fuor d'ogni natural costume, che era un stupor a udire, nonché a vedere. Gabrina, inteso il desiderio di Isabella, si mosse a pietà e promise d'aiutarla, e confortolla ad essere di buon animo che tosto vedrebbe e goderebbe il suo marito. Isabella, per la buona risposta tutta allegra, aperse la borsa e diele 10 fiorini. Gabrina, per gli ricevuti danari lieta, si mise in vari ragionamenti, aspettando la buia notte. Venuta l'ora destinata dalla maga, ella prese il suo libretto e fece in terra un cerchio di non molta grandezza, intorniandolo con certi segni e caratteri. Inde prese un delicato liquore e una giocciola ne bevé, e altrettanto ne diede ad Isabella a bere. E bevuto che ella ebbe, così le disse: Isabella, tu sai che noi siamo qui ridotte per far uno scongiuro, a ciò che intendiamo del marito tuo. Però è bisogno che tu sii costante, non temendo cosa che tu sentesti o vedesti, che spaventevole fusse. Né ti dia l'animo di invocare Dio, né santi, né farti segno di croce, perciò che non potresti tornare addietro e saresti in pericolo di morte. Rispose Isabella, non dubitate punto di me, Gabrina, ma state sicura che se io vedessi tutti i demoni che nel centro della terra abitano, non mi smarrirei. Spogliati adunque, disse la maga, ed entra nel cerchio. Isabella, spogliatasi e nuda come nacque rimasa, nel cerchio animosamente entrò. Gabrina, aperto il libro e parimente entrata nel cerchio, disse: Per la potente virtù che io mi trovo avere sopra voi, principi infernali, vi scongiuro che immantenenti vi appresentate dinanzi a me. Asharoth, farfarella degli altri principi di demoni, astretti dal scongiuro di Gabrina, con grandissime strida lei subito s'appresentaro e dissero: Comanda ciò che ti piace. Disse Gabrina: Io vi scongiuro e comando che senza indugio alcuno e veracemente mi palesate dove ora si trova Ortodosio Simeoni, marito di Isabella, e se egli è vivo o morto. Sappi, Gabrina, disse Asharoth, che Ortodosio vive ed è in Fiandra, e dell'amor d'Argentina è sì focosamente acceso che della moglie più non s'ha ricorda. La maga, questo intendendo, comandò a Farfarello che in un cavallo si trasformasse, e là dove era Ortodosio, Isabella conducesse. Il demonio, in cavallo trasformato, prese Isabella, e levatosi nell'aria senza che alcuno documento ella sentisse né timore avesse, nell'apparir del sole nel palazzo d'Argentina invisibilmente la pose. Fece Farfarello subito Isabella in Argentina cangiare, e sì chiara era la lei apparenza che non Isabella, ma Argentina pareva. E in quel punto trasmutò Argentina in una forma di donna attempata, la quale da alcuno non poteva essere veduta né sentita, né la poteva vedere altrui. Venuta l'ora di cena, Isabella, così trasformata, cenò col suo Ortodosio. Indi, andatasene in una ricca camera, ov'era un morbido letto, a lato di lui si coricò. E credendo Ortodosio con Argentina giacere, giacque con la propria moglie. Di tanta virtù, di tanta forza furono le tenere carezze, gli stretti abbracciamenti congiunti con i saporiti basci, che in quella notte Isabella si ingravidò. Farfarello in questo mezzo furò una veste di ricco trapunto di perle tutta ricamata, ed un vago monile che per la dietro Ortodosio d'Argentina donato aveva. E aggiunta la notte seguente, Farfarello fece Isabella e Argentina nella propria forma ritornare, e presa sopra la groppa Isabella, la mattina nel spuntar dell'aurora nella casa di Gabrina la mise, e a lei Farfarello diede la veste e il monile. La maga, avuta la veste e il monile dal demonio, li diede ad Isabella, dicendo: Figliola mia, terrai queste cose care, perciò che a tempo e luogo saranno della tua realtà vero testimonio. Isabella, presa la veste e il vago monile, e rese le grazie alla maga, a casa ritornò. Ad Isabella, passato il quarto mese, incominciò a crescere il ventre e dimostrare segno di gravidezza. Il che vedendo, i suoi parenti molti si maravigliarono, e massime avendola per donna religiosa e santa. Onde più volte la dimandaro se era gravida, e di cui. Ed ella, con allegra faccia, di Ortodosio se esser pregna rispondeva. Il che, esser falso, i parenti dicevano, perciò che chiaramente sapevano il lei marito già gran tempo esser stato, e ora essere da lei lontano, e per conseguente essere impossibile lei di Ortodosio essere gravida. Per il che i parenti addolorati molto cominciarono a temere il scorno che li poteva venire, e tra loro più fiate deliberarono farla morire. Ma il timore di Dio, la perdita dell'anima del fanciullo, il mormorar del mondo e l'onore del marito, da tale eccesso rimuovendoli, volsero della creatura aspettare il nascimento. Venuto il tempo del parto, Isabella, uno bellissimo fanciullo, partorì, Il che inteso, e parenti grandemente si duolsero, e senza indugio ad Ortodosio in tal maniera scrissero: «Non già per darvi noia, cognato carissimo, ma per dinotarvi il vero, noi vi avvisiamo Isabella vostra moglie e sorella nostra aver, non senza nostro grave scorno e disonore, partorito un figliolo, il qual di cui sia, noi non sappiamo. Ma ben giudicheressimo da voi esser generato, quando da lei voi non foste così lungamente stato lontano. Il fanciullo con la sfacciata madre sarebbe fin d'ora per le nostre mani di vita spento, se la riverenza che noi portiamo a Dio intertenuti non ci avesse. E a Dio non piaccia che nel proprio sangue si macchiamo le mani. Provvedete adunque a casi vostri e salvate l'onor vostro, né vogliate sofferire che tal offesa rimanga impunita». Ricevuta che ebbe Ortodosio le lettere e intesa la triste novella, grandemente si rammaricò e, chiamata Argentina, le disse: «Argentina, a me fa bisogno molto di ritornare a Firenze, a ciò che spedisca certe mie bisogna di non picciola importanza, le quali, fra pochi giorni spedite, subito ritornerò a te. Tu in questo mezzo abbi cura di te e delle cose mie, non altrimenti giudicandole che se tue fossero, e vivi allegra a ricordandoti di me». Partitosi adunque di Fiandra, Ortodosio con prosperevole vento ritornò a Firenze, e giunto a casa fu dalla moglie lietamente ricevuto. Più volte venne all'Ortodosio un diabolico pensiero di uccidere Isabella e di Firenze chetamente partirsi, ma considerando il pericolo e il disonore, volse ad altro tempo riservarsi il castigo. E senza dimora fece intendere ai suoi cognati il ritorno suo, pregandogli che nel seguente giorno a desinar seco venissero. Venuti i cognati, secondo l'invito fatto a casa di Ortodosio, furono ben veduti da lui e meglio accarezzati, e tutti insieme allegramente desinarono. Finito il prandio e levata la mensa, Ortodosio così a dire incominciò: «Amorevoli cognati, penso che a voi manifesta sia la causa per la quale noi qui vi raunati siamo, e però non fa misteri ch'io lungamente mi distendi in parole, ma verrà il fatto che a noi s'appartiene». E alzato il viso contro la moglie, che a dirimpetto lì sedeva, disse: «Con cui, Isabella, il fanciullo che in casa tieni, hai tu conceputo?» A cui Isabella: «Con esso voi», rispose. «Meco? E come meco?» disse Ortodosio. «Già sono 5 anni che io ti sono lontano, e da allora che mi partì non mi hai veduto. E come dici tu averlo conceputo meco?» «E io vi dico», disse Isabella, «che il figliolo è vostro, e in Fiandra con esso voi hollo conceputo». Allora Ortodosio, d'ira acceso, disse: «A bugiarda femmina e d'ogni vergogna priva, quando in Fiandra fosti tu già mai?» «Quando giacqui nel letto con voi», rispose Isabella, e cominciando dal principio del fatto, gli raccontò il luogo, il tempo e le parole tra loro quella notte usate. Il che, quantunque ad Ortodosio e a cognati ammirazione porgesse, non però credere lo poteano. Onde Isabella, vedendo la dura ostinazione del marito e conoscendo l'incredulo, levossi da sedere e, andatasene in camera, prese la veste ricamata e il bel monile, e ritornata al marito, disse: «Conoscete voi, signor mio, questa veste sì divinamente trapunta?» A cui Ortodosio, quasi smarrito e fuori di sé, rispose: «Bene è vero che una veste simile mi mancò, né mai di quella si puote aver nuova». «Sappiate», disse Isabella, «questa essere la propria veste che allora vi mancò». Indi, posta la mano in seno, trasse fuori il ricco monille e disse: «Conoscete voi ancora questo monille?» A cui, contraddire non potendo il marito, «di conoscerlo», rispose, «songiungendo quello con la veste essergli stato allora involato». «Ma ciò che voi», disse Isabella, «conosciate la fedeltà mia, vogliovi apertamente dimostrare che scioccamente voi vi sfidate di me». E fattosi recare il fanciullo, che la balia nelle braccia teneva, e spogliatolo di suoi bianchissimi pannicelli, disse: «Ortodosio, conoscete voi questo bambino?» E mostrò il piede manco, che del dito minore mancava, vero indizio e intiero testimonio della materna fede, perciò che ad Ortodosio altresì tal dito naturalmente mancava. Il che Ortodosio, vedendo, sì fattamente s'ammutì, che non seppe né poté contraddire, ma preso il fanciullo nelle braccia lo basciò, e per figliuolo lo ricevette. Allora Isabella prese maggiore ardire, e disse: «Sappiate, Ortodosio mio diletto, che i digiuni, le orazioni e gli altri beni che io feci per sentir novelle di voi, mi hanno fatto ottenere quello che sentirete. Io, stando una mattina nel sacro tempio dell'Annunciata in ginocchioni pregandola che intendesse di voi nuova, fui esaudita, imperciò che da un angelo in Fiandra io fui invisibilmente portata, e appresso voi nel letto mi corricò. E tante furono le carezze che in quella notte mi feste, che di voi gravida rimasi. E nella seguente notte, con le robe a voi mostrate, a Firenze nella propria casa mi ritrovai». Ortodosio e fratelli, veduti che ebbero gli evidentissimi segni e udite le parole che Isabella fedelmente raccontava, insieme l'un con l'altro s'abbracciarono e basciarono, e con amore maggiore che prima la loro parentela stabilirono. Dopo passati alcuni giorni, Ortodosio in Fiandra ritornò, dove onorevolmente maritò Argentina, e caricate le sue merci sopra una grossa nave, ritornò a Firenze, dove con Isabella e col fanciullo in lieta e tranquilla pace lungo tempo visse. Fine della storia. Finita la compassionevole novella da Vicenza recitata e da tutti sommamente commendata, la signora, da cui begli occhi per dolcezza le lagrime cadevano, comandole che il suo enimma proponesse, ed ella, senza fare alcuna scusa prontamente, così disse: «Grosso e tondo son io, vago e pulito, e fra due bianche cosse in un bel fesso, quando ho maggior vigore son più ardito, e ho il ventre più pien, son dentro messo, onde mi trovo al fine indebilito, però che qua e là son moto spesso. Occhi ho e non veggio, e sto festoso e baldo, e quanto più raffredda, ed io più scaldo». Piacque molto la brigata l'arguto enimma da Vicenza proposto, né vi fu veruno, quantunque dotto fosse, che non rimanesse perplesso. Laonde Vicenza, vedendo la compagnia mutola divenuta e il suo enimma irresoluto rimanere, levossi in piedi, e dimandata a prima licenza, così le spose: «Altro, signori, l'enimma mio non dimostra, eccetto il scaldaletto, il quale, avendo il ventre pieno di brage, è posto tra le bianchissime lincinola. Egli ha gli occhi, cioè e busi, e adoperasi quando è maggior freddo». Fine della prima favola della settima notte.